Per ogni appuntamento si riparte con la sigla On Broadway, George Benson, la via del teatro, e il nostro sipario continua, il nostro palcoscenico per meglio dire, con un festival tra Forlì e Bologna, e ne parleremo insieme alla direttrice artistica Sblocco 5, compagnia Sblocco 5, mattiniera ancora una volta Yvonne Capece. Buongiorno Yvonne, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, grazie mille Walter, grazie a te. Ma grazie a voi, intanto allora. Sempre hai un pensiero per le nostre attività, sì. I nostri progetti. Stavolta anche una curiosità. Sì. Lucy Festival è un acronimo, è un nome, insomma, ci puoi dire qualcosa di più su questa mia curiosità? È proprio Lucy, è proprio okay. Il nome, diciamo, classico che è stato dato all'Australopithecus, che secondo, diciamo, la tradizione ha diciamo dato origine, la madre che ha diviso il ramo umano da quello delle scimmie, quindi è proprio un omaggio a lei, perché Lucy è un progetto, insomma, di arti performative e nuove tecnologie, ma è a livello, diciamo, ideologico un attraversamento del rapporto tra uomo e progresso. Certo, io sono l'anello quindi... mancante, facciamo il festival Willy. Io sono l'anello mancante. È bellissimo Willy, bellissimo, un nome bellissimo per un ti festival. Ringrazio, sarà mia cura magari suggerire per ci pensiamo, dai. Intanto però restiamo a questa realtà che parte appunto oggi dal 24 novembre al 3 dicembre, come ho detto, è tra Forlì e Bologna. Come si inizia? Si inizia oggi, quindi tu hai dato proprio il buongiorno all'inizio del festival. La prima serata è stasera in Oratorio San Filippo Neri. Qui su Bologna abbiamo due, diciamo, linee principali. Un percorso per cui ogni sera, diciamo, in forma totalmente gratuita è possibile partecipare a alcuni spettacoli in Oratorio San Filippo Neri, e gli spettacoli, i progetti che abbiamo selezionato per l'oratorio sono tutti progetti in cui la componente, diciamo, tecnologica del suono o della ricerca sul suono ha una rilevanza particolare, quindi sono spettacoli ma per le orecchie, quindi caratterizzati da un'immersione sonora molto potente. Quale miglior sede, aggiungo, dell'oratorio San Filippo Neri per tutto ciò che è perfetto. Ecco. Assolutamente, infatti è una collaborazione, diciamo, non casuale. Misma Onda è stata proprio molto interessata soprattutto ad essere partner della, diciamo, sezione dedicata alle sperimentazioni su arti performative e suono, che è una delle parti del nostro festival. La novità di quest'anno, tu sai che, diciamo, questa è una prima edizione, l'anno scorso noi abbiamo fatto sostanzialmente un'edizione lancio, è l'aggiunta nella seconda metà della serata, quindi in fasi più tarde, di una sezione after show, dove quindi a fianco a un momento di convivialità, dove si può bere un drink eccetera tutti insieme, si assiste a, diciamo, le performance più off, più smart, diciamo così, o anche più giovani. Ad esempio ci sono molti artisti emergenti all'interno di questa sezione presso la Casa delle Associazioni del Baraccano. Questo per quanto riguarda, diciamo, Bologna. Sì, no, ma infatti hai, per quanto riguarda, a proposito, la parte giovane, hai usato i termini smart e off, così arriva nella maniera più immediata. Più immediata. Questo, sì, quindi sono allestimenti molto semplici, ma dove c'è comunque soprattutto una, per esempio, una ricerca di forme particolari, quindi di forme ibride tra spettacolo, conferenza, installazione, quindi è la sezione, diciamo, più legata anche ai confini forse con le altre arti. E quest'anno noi abbiamo deciso di dedicare all'after show, diciamo, la sezione Century del nostro festival, che è quella un po' dedicata agli ultimi 100 anni della nostra storia. Quindi ci sono due biografie, cioè due spettacoli che sono sostanzialmente, si basano su due biografie di due personaggi, diciamo, di due artisti fondamentali del Novecento, molto diversi tra loro, Elsa Morante da un lato e Andrea Pazienza, il fumettista, sì, dall'altro. Spettacoli, diciamo, o progetti che hanno un focus più politico o di riflessione, quindi c'è questa bella, diciamo, questo bel dispositivo podcast ideato da Massimiliano Priarada con 30 ragazzi Unibo sul concetto di democrazia, quindi sono discorsi realizzati dai ragazzi, dagli studenti universitari sul tema della democrazia a Bologna e diciamo questa sezione che è una vetrina per gli allievi dell'alta formazione CROSS, autori e attori, in questo caso sono appunto due allieve, Valentina Ghelchi e Selene De Maria, che presentano questo progetto diciamo sul rapporto tra femminilità e scoperta anche di se stesse, del corpo, dell'identità sessuale. I progetti in oratorio sono invece quelli appunto tecnicamente più sofisticati. Apriamo questa sera con Pupilla, che è questa lettura con audio binaural dal vivo, quindi con questa testa binaurale che riproduce il suono a 360 gradi in una maniera estremamente realistica e immersiva, su una riscrittura di Federico Bellini, un sequel diciamo che fa parte di un progetto di Federico Bellini attorno a Casa di Bambola di Ibsen. Sì. E abbiamo già aperto il secondo turno, perché il primo è praticamente andato a ruba, quindi bene, siamo molto contenti, sì, molto molto contenti del riscontro che sta avendo. E la seconda giornata, quindi domani sabato 25 dalle 18, c'è l'Aria Cecchinato con Altre Velocità. Qui ti fermo, quindi è la nostra, sì, mi permetto di dire, è la nostra, sì, è l'Aria Cecchinato. È già due volte che mi compare improvvisamente nella rubrica in scena, che tra l'altro è stata portata avanti per diversi periodi con Ilaria, quindi la saluto a distanza e mi fa piacere ritrovarla. Moltissimo, ecco. Lei porta avanti appunto questo percorso che a noi affascina molto, è già da tempo, quindi siamo in contatto in questo senso, su le nuove forme di audio fiction e quindi sul rapporto tra teatro e podcast, per cui Ilaria ha selezionato per noi due audiodrammi, quindi due spettacoli per sole orecchie, quindi un'esperienza di ascolto al buio molto interessante. Vedi che c'è la radio in questo caso sempre, ma assolutamente, ma è rimasta, diciamo, in Ilaria la radio. Ah, tantissimo, tantissimo, moltissimo, moltissimo, e anche, diciamo, in generale a noi, insomma, a me e anche all'altra direttrice che mi colpighi del festival, interessa moltissimo la dimensione del suono e anche della radiofonica. Sì, perché, della diffusione. Sì, perché come tu ben sai, in realtà, diciamo, in una apparentemente viviamo in una fase diciamo di proiezione tecnologica verso degli strumenti apparentemente più pervasivi legati all'immagine eccetera, però invece come tu ben sai c'è un ritorno molto forte dell'intrattenimento legato alle forme radio, radiofoniche, podcast, certo, eccetera, e quindi è un fenomeno molto interessante, diciamo, da studiare. Analizzare, collegato alla da analizzare, esatto, collegato alla tecnologia. Bene, questo mi riempie anche di entusiasmo ulteriore della presentazione. Facciamo un piccolo stacco musicale, poi continuiamo anche con quello che sarà il percorso a Forlì, mi pare, no? Certo, perché abbiamo noi, sai, che procediamo sulla Via Emilia verso la Romagna. A tra poco. Grazie, tra poco. Grazie. Take off your clothes and feel as if it's time. Take off your clothes and feel as if it's time. Extend your hands to see as if it's time. Because you're rising your hand. Extend your hands to see as if it's time. Because you're rising your hand. Sun is rising. Look at the rising sun. Sun is rising. Look at the rising sun. Sun is rising. Look at the rising sun. Sun is rising. Look at the rising sun. scena Radio Città Fujiko, abbiamo dato approfondimento anche sull'origine del nome Lucy Festival, la curatela di Sblocco 5, con noi Ivone Capece. Salutiamo anche Nicole Vighi per la direzione artistica di questi motivi di incontro. Abbiamo parlato di incontri su Bologna, però ancora una giornata abbiamo da presentare, da visionare, che è quella legata alla domenica. Dopodiché, come ho anticipato, visto che è tra Bologna e Forlì, andremo in quel di Romagna. Ci sei intanto, Ivonne? Eccomi, sempre con voi. Domenica. Allora, domenica chiude Bologna, il nostro spettacolo naturalmente, certo. Quindi abbiamo Thinking Blind in Oratorio San Filippo, di cui forse avevamo anche già parlato, un progetto che è stato finalista in Bellare College un paio d'anni fa, su Derek Jarman in generale, sull'AIDS, ma anche sui diritti civili, uno certo. Spettacolo orientato, diciamo, in quella direzione, con una forte componente immersiva sonora curata da Simone Arganini in cuffie wireless. È una cosa a metà fondamentalmente tra una performance e anche qui un ascolto, ed è ispirato al film Blue di Derek Jarman, un film altamente sperimentale, perché praticamente, come tu ricorderai, era un unico sfondo monocromo blu, quindi la gente andava al cinema aspettandosi di vedere qualcosa e sempre quello vi era, solo sì. Ascoltava, certo. Sì, esattamente. Chiude il festival diciamo il talk a cura di Renzo Francabandera e di PAC, Pane Acque Culture, che fanno un po' da moderatori attraversatori del festival, e quindi rifletteremo un po' su tutto ciò che è accaduto a Bologna. Bene. Forlì e invece la sezione, direi, i progetti di Forlì sono fortemente invece incentrati sul rapporto tra creatività e robotica, mi sento di dire, perché ben 2 su 3 serate sono dedicate a questo tema o a progetti di questo tipo. Cominciamo il 1° dicembre con Twittering Machine di Collettivo Ada, uno spettacolo che è stato vincitore al PIMOF lo scorso anno, se non sbaglio. Qui abbiamo forti componenti video e anche elaborazioni elettroniche dal vivo, con una DJ molto famosa che è Lady Maru, e che studia il rapporto, diciamo, conflittuale tra uomo e società, civiltà dei social nel quale stiamo vivendo, e quindi che utilizza la tecnologia in scena per criticare però o indagare il nostro rapporto con le tecnologie legate all'immagine. Il 2 e il 3 invece sono 2 progetti ai quali tengo molto. Il sabato 2 cominciamo con questo progetto che è in partnership con il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, curato dal professor Matteo Casari, e in partnership anche con Cuca, che è questa azienda multinazionale che costruisce bracci robotici, quindi specializzata nell'intelligenza artificiale e nella robotica, diciamo, di altro profilo. Cuca ci ha offerto gentilmente, ci ha fornito un robot Cuca per la durata di 1 mese, che è stato completamente programmato da noi per dimostrare, diciamo, in qualche modo la sua semplicità, che non è cattivo, che non è cattivo per niente, anzi appartiene alla categoria di quelli collaborativi, di quelli buoni. Di quelli buoni ho compreso molte cose sul mondo dei robot, che è davvero un ramo molto affascinante da indagare. Quindi comunque cominciamo con Inside Me, performance all'interno della quale è presente questo braccio robotico Cuca. Proseguiamo con questo film spettacolo, quindi anche qui al confine con le arti, degli Amagor, compagnia Leone d'Argento alla Biennale di Venezia, che ha realizzato questa sorta di film spettacolo, quindi è un film che però si vede a teatro e ha delle caratteristiche di composizione estetica tipicamente teatrali, ma si fruisce completamente in video, ma dal vivo, quindi anche qui una forma ibrida molto interessante. Chiudiamo la giornata domenica 3, dalle 16 del pomeriggio fino alle 20:30, con il progetto di Matteo Casari, Gradi di Libertà, tutto legato al rapporto tra creatività e robotica. L'anno scorso l'abbiamo fatto proprio al DAMS Lab qui a Bologna, quest'anno riusciamo ad ospitare uno spettacolo proveniente da, diciamo, da Parigi, quindi è un team di ricerca di ingegneri e artisti dell'Università di Parigi, e porterà questa conferenza spettacolo con due robot in scena. Presentissimi questi robot qui, sono veramente Forlì moltissimo, è uno dei rami, è uno dei rami, diciamo, di indagine, di sperimentazione di Lucy. Artistico e scientifico. Quindi, per avere tutte le informazioni, intanto complimenti, anzi salutami anche Micolo, ogni tanto ci alterniamo per queste conversazioni, e complimenti a te anche per aver ricordato in maniera così chiara, seppur insomma tanti gli appuntamenti, sei stata molto molto precisa, ma per averne, a parte che ci sarà appunto la possibilità di riascoltare il format in scena con i vostri contenuti, e per la rete, via pagina Facebook, il sito, per avere informazioni sempre e comunque. Ci sono riferimenti, li puoi dare? Sì, il nostro sito è Lucy Festival, www.lucyfestival.net, e poi Lucy Festival su Sblocco 5, Instagram, e anche i nostri profili, quindi su Sblocco 5 trovate tutte le informazioni. Bene, io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione di presentazione per l'edizione di Lucy Festival, Linguaggi della scena technologically orientated, pronunciato bene, dai, sono stato abbastanza bravo, tra Bologna e Forlì, avremo modo comunque di sentirci per un prossimo incontro. Grazie Yvonne, grazie mille, buona giornata. Buona giornata ciao, a voi. Ciao, buon festival, ciao. Lascio con le corde di Bill Frisell, che tra l'altro è stato presente anche di recente nella rassegna del Bologna Jazz Festival, ricordando che dalle 11.30 alle 12.30 avremo Jazz Live, e intanto non finisce qui, in scena sui 103.1 ci ritroviamo dopo la pubblicità. A tra poco.